carità, no, no, proprio una sola parola di ringraziamento credo sia doveroso, perché le relazioni sono state di altissimo livello e credo particolarmente anche oggi nelle relazioni dell'intervista hanno toccato il cuore non solo storico ma direi politico nel senso più pieno, insomma, ecco, di questa nostra riflessione appunto che mira allo studio del passato per trovare, ecco, le ragioni di una nuova convivenza. Quindi veramente grazie a tutti. Ecco, io torno a portare ancora i saluti del professor Corsini, a cui abbiamo comunicato man mano i risultati del lavoro e che ringrazia pure i presenti per tutto. Ecco, una sola comunicazione, cioè pensiamo di pubblicare le relazioni che sono state presentate a questo incontro. Non è nostro costume pubblicare le discussioni, cioè delle discussioni i referati tengono conto, ecco, ma non pubblichiamo le discussioni. Ecco. E pensiamo ad una presentazione dei testi per il prossimo settembre, per dare tempo per una revisione ultima dei testi, quindi scriveremo poi a questo proposito ai singoli relatori, e questo direi è tutto come comunicazione. Ecco, alcuni desiderano stasera anticipare la cena alle 8, mi pare, perché così dopo ci può essere anche più spazio. Mi scuso che devo partire per Bologna, quindi non potrò essere presente, ma spero che il soggiorno finisca così bene come è stato piacevole, credo, in questi giorni stare insieme. Grazie molto a tutti.